Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Buon pomeriggio da Maria Luisa Pezzali, ben ritrovati con Essere e Avere. Dimmi cosa compri e ti dirò chi sei. Oggi nel primo dei nostri approfondimenti parliamo del volantino. Quanto vale ancora nella grande distribuzione? Quanto pesa nei budget pubblicitari? Anche ai tempi di internet, il più tradizionale degli strumenti promozionali continua ad essere il preferito dalle insegne. Focus sui trend dedicato invece ai consumi sociali, quando i consumi fanno del bene e fanno anche tendenza. Ma iniziamo come sempre con le notizie e curiosità di questa settimana. Neppure i saldi riescono a rianimare i consumi. Meno 9% nelle vendite di quest'anno, secondo il bilancio di Federmoda. Il calo va sommato alla flessione di oltre 6 punti percentuali già registrata lo scorso anno. Soffrono anche i consumi di carnevale. Secondo le stime della Confederazione Italiana Agricoltori, la crisi ha frenato gli acquisti di frappe, castagnole, frittelle e altre specialità del periodo, in calo dell'11% rispetto allo scorso anno. Cresce però il fai da te, con il 15% degli italiani che torna a mettere le mani in pasta. La crisi cambia anche i viaggi di San Valentino. Secondo l'osservatorio Vola Gratis, che registra un calo del 17% nelle prenotazioni del periodo, accanto alla tradizionale Parigi emergono mete romantiche più economiche, come Budapest e Praga. Tempi duri per i cinesi amanti del lusso. Per contrastare la crescente corruzione e contenere la rivolta sociale, il governo del Dragone ha promosso una campagna di vera e propria austerity. Tra le iniziative, il divieto per radio e TV di trasmettere spot dei beni di lusso. Il guardaroba privato di Anna Piaggi sarà protagonista di una mostra alla Fabbrica del Vapore di Milano. I capi della giornalista di Vogue Italia, scomparsa lo scorso agosto all'età di 81 anni, saranno visibili al pubblico durante la Settimana della Moda, in programma dal 20 al 26 febbraio. La borsa della spesa. Ve la ricordate la piuma di Forrest Gump? Fluttuava nell'aria nelle immagini iniziali e finali del film. Le abbiamo volute richiamare per parlare del volantino, lo strumento promozionale così antico ma ancora così usato nella grande distribuzione. Stampato e distribuito in grandi quantità, si parla di 12 miliardi di volantini all'anno, pensate. Anche in tempi di internet e comunicazione digitale rappresenta una voce importante, dal 60% all'80% nei budget pubblicitari delle insegne, soprattutto in questi anni di crisi in cui i supermercati e i ipermercati hanno spinto il piede sull'acceleratore per quanto riguarda le promozioni, considerate l'arma principale per contrastare la contrazione dei consumi. Basti pensare che oggi ormai quasi un prodotto su tre viene venduto in promozione. Anni questi in cui il consumatore, alla ricerca dell'offerta più vantaggiosa, surfa, come si dice in gergo, tra le insegne ed è un consumatore sempre più infedele. In media visita più di 3 punti vendita diversi. Di tutto questo abbiamo parlato con Enrico Pozzoli, esperto retail di Accenture. È un po' invecchiato, questo è vero, però dobbiamo anche pensare che oggi la pressione promozionale incide sempre una quota rilevante del fatturato. Si parla di un 27-30% con un'incidenza delle referenze intorno al 12-15%, no? Per cui il volantino è convinzione comune essere ancora quello strumento che sostiene questa quota importante di fatturato. Che tipo di ritorno ha il volantino? Noi abbiamo fatto una ricerca e abbiamo misurato che il 70% delle copie distribuite raggiunge un'abitazione, il 70% di queste viene letto e il 60% di queste è utilizzato per pianificare gli acquisti. Se mette insieme queste percentuali risulta che solo il 30% del volantino è effettivamente utilizzato per pianificare gli acquisti. Oggi ci sono consumatori che per fascia di età e per attitudine sono molto sensibili a certi canali di comunicazione, come lo smartphone, il web e tutti i device multimediali, rispetto ad altri canali di comunicazione. L'efficacia di questi strumenti è quella di poter agire in un meccanismo uno a uno con i singoli consumatori e instaurare un meccanismo virtuoso. Se dovessi chiederle quanti anni di vita dà ancora al volantino, che cosa mi risponderebbe? Le direi ormai è già morto. Perché la grande distribuzione è ancora così affezionata, diciamo, al volantino? Lo abbiamo chiesto a Sergio Cassingena, vicepresidente di ADM, Associazione Distribuzione Moderna. Antico e vetusto, però comunque sembrerebbe ancora il più idoneo per il contatto con la massa dei consumatori. Il volantino è lo strumento col quale si notificano le promozioni ai consumatori sempre e pertanto a maggior ragione in questo momento particolarmente usato dal consumatore quasi in sostituzione della lista della spesa. Molti ci stiamo provando usando internet, ma in questo momento internet comunque non è ancora in uso sul 100% ovviamente dei consumatori, ma su una fascia che in questo momento è ancora notevolmente inferiore e quindi è ancora uno strumento indispensabile e quindi la cura maggiore è nella scelta di un distributore che sia sempre più professionale. Quanti anni di vita darebbe ancora al volantino? Almeno 5, perché ritengo che molto potrà essere risolto nel momento nel quale i consumatori, specialmente la frangia ultra trentenne, si doterà sempre di più di smartphone su cui poter far giungere le comunicazioni. Molti messaggi promozionali potrebbero giungere direttamente sullo smartphone del consumatore. Con gli SMS non ci si è riusciti, specifico, che poi sono stati totalmente abusati e i consumatori non hanno più dato il loro consenso. Supermercati, ma non solo, anche le insegne dell'elettronica, ad esempio, si affidano molto al volantino. Ecco che cosa ci ha detto Maurizio Motta, direttore generale di Media Market. Vecchio volantino, ma tuttora, secondo noi, è estremamente attuale, soprattutto in una veste nuova. Oggi il volantino non è più lo strumento cartaceo to cure, ma è uno strumento promozionale arricchito di tutta una serie di attività, diciamo, accessorie, di contorno, se vogliamo, altrettanto importanti, che invece mirano più a una tecnologia nuova, che possono essere i social, possono essere le mail e possono essere tutta una serie di attività che evidentemente danno da compendio al volantino e che permettono, rispetto al volantino, di fare delle attività di maggiore qualità. C'è chi predice una morte prossima, più o meno prossima, del volantino. Lei che aspettativa di vita dà? Anzitutto le dico, 5 anni fa si diceva la stessa cosa. Il volantino, se doveva sopravvivere ancora poco, al fronte di nuove tecnologie o di nuove attività che si volevano fare. Poi la realtà è che dopo 5 anni siamo ancora qui a parlare del caro vecchio volantino. Il volantino oggi è ancora l'unico strumento che garantisce un volume di vendita e la capacità di raggiungere capillarmente una serie enorme di consumatori. Se qualcuno trovasse un'alternativa al volantino, per quello che è l'impegno di un'azienda a fare un volantino, io credo che noi per primi, ma tutti, lo adotteremo immediatamente. Sta cambiando il volantino, è cambiato negli ultimi anni, ma rimane ancora un pilastro delle politiche promozionali delle aziende di grandi distribuzioni. Cambiamo argomento con Cristina Lazzati, vice direttore area retail di Business Media. Parliamo della nuova iniziativa di Oscar Farinetti, il patron di Italy. Il vulcanico Oscar Farinetti non si ferma mai e nelle vesti di amministratore delegato della casa vitivinicola Fontana Fredda lancia Libero Vino. Ma libero da cosa? Sotto profilo fisico, da concimi chimici e diserbanti. Libero sarà un vino con meno sulfiti o addirittura senza. Ma anche libero, sottolinea Farinetti, dalle mode, dagli eccessi delle analisi sensoriali e dagli abbinamenti troppo complicate. Un ritorno al passato? Innovazione. Non è sempre detto che debba essere progresso, debba essere futuro. A volte l'innovazione può essere passato. Forse è slow food, il concetto di slow food è più moderno del fast food, chi lo sa. Quindi magari il futuro è un po' nel passato, allora ci proviamo. La video intervista completa a Oscar Farinetti la trovate su Retail News e sul sito gdweek.it. Essere e avere. Mi fido di te, mi fido di te. Di nuovo in studio con Essere, avere fiducia è proprio una delle parole chiave della tendenza di questa settimana, una parola che ha molto a che fare con quello che di buono ha portato la crisi, ci piace dire. Oggi nel Focus sui Trend parliamo di consumi sociali, i consumi che fanno bene al mondo. È una tendenza che abbiamo individuato un anno fa, in questi mesi, complice appunto il lato buono della crisi, è praticamente esplosa. Ne parliamo come sempre con la nostra esperta, Patrizia Martello di Memetti Club. Patrizia, ciao, ben ritrovata. Ciao, buongiorno a tutti. Dai charity shop ai supermercati comunitari, dai social network della solidarietà al good design, il design che migliora la vita, fino al cause-related marketing, il marketing associato alle cause sociali. L'etica si fa sempre più spazio nel panorama dei consumi, rendendo virtuoso il business. Patrizia. Sì, il business virtuoso di cui parliamo oggi è quello con obiettivi sociali, ma si può fare il social business? Risponde sì, che si può fare. Muhammad Yunus, economista bengalese, Nobel per la pace nel 2006, ideatore non a caso del microcredito per finanziare progetti imprenditoriali capaci proprio di riscattare dalla povertà. Secondo lui il business sociale non solo si può fare, ma può creare un capitalismo più umano, quindi libero mercato sì, ma arricchito di aspirazioni filantropiche. E proprio questa è un'interpretazione interessante delle azioni benefiche, cioè andare oltre la charity, oltre la beneficenza alle donazioni, ma inventare prodotti e servizi su misura per le popolazioni meno abbienti. Significativo in questo senso il caso di Proximity Design, un modello di business che tratta i poveri come clienti e non come destinatari di iniziative appunto paternalisticamente caritatevoli. Proximity Design produce e vende in Birmania pompe per l'irrigazione ad uso agricolo, accessibili a chi guadagna meno di $2 al giorno. Dunque un prodotto super low cost, venduto, ripeto, e non donato, e a suo modo un prodotto futuribile, visto che la scarsità di terre coltivabili e di acqua saranno due questioni molto influenti sugli equilibri ambientali ed economici del pianeta. In questa direzione, passando al retail, si innestano anche le iniziative delle catene di panetterie Panera o la catena di locali Caffè Gratitude, presenti sia negli Stati Uniti che in Canada. Chi può comprare il pane o pagare una consumazione lo fa, chi non se lo può permettere contribuisce con ciò che ha, quindi un'offerta commisurata alla capacità di spesa che evidentemente, se è azzerata, si trasforma in caffè e cibo totalmente gratuiti. Il cosiddetto terzo settore, cioè le organizzazioni non governative, ONLUS, fondazioni, enti caritatevoli, umanitari, cooperative, eccetera, nel mondo vale $400 miliardi. Il business, questo grande business della beneficenza, trova ovviamente un grande alleato nella rete, nei social network. Task Turtle, network americano, è uno dei molti nati per procurare lavoro, per esempio, a persone in stato di povertà. Funziona da bacheca per favorire i contatti tra chi ha bisogno di piccoli lavori e senza fretta, tipo ridipingere la porta di un garage, con i senza tetto, anziani o poveri che sono liberi di decidere quando fare il lavoro a loro piacimento in cambio di cibo, quindi barato, o di piccole somme di denaro. Altri esempi di network solidali sono Paperflops in Indonesia, Touch in Sudafrica, l'italiano Socialidarity che offre corsi per la riconversione professionale, o Shiny Note, il social network delle belle storie che racconta e finanzia progetti diversi socialmente, umanamente rilevanti, appunto supportati con la modalità crowdfunding, o ancora RetedelDono.it, il portale italiano del personal fundraising. Da segnalare il grande ritorno della cooperazione, del mutuo soccorso e delle imprese con bilanci sociali. Interessante il caso di The People Supermarket di Londra, il supermercato di tutti, delle persone. Una storia di imprenditoria partecipativa di quartiere, interessante proprio perché i clienti, che sono anche soci di questo supermercato cooperativa, che dunque reinveste gli utili nell'attività stessa e che lavorano anche come addetti alle vendite almeno per 4 ore al mese in cambio di uno sconto del 10% sulla spesa, sono riusciti a mantenere in piedi l'attività di The People Supermarket sull'orlo del fallimento a fine marzo 2012. Anche l'alta moda diventa solidale con i charity shop i negozi che vendono capi e oggetti usati e reinvestono gli utili in progetti di solidarietà. Vi si trovano capi vintage, ma anche non, il più delle volte sono accessori, abiti griffati, donati per lo più dalle star o dalle case di moda, a prezzi molto accessibili, quasi stracciati. E si moltiplicano anche le imprese sociali che gestiscono ristoranti e locali, a fare scuola da anni a Milano nell'ex area dell'ospedale psichiatrico Paolo Pini, Olinda, che in quegli spazi gestisce un ristorante, un teatro, un ostello e anche un orto, tutti luoghi di reinserimento sociale attraverso il lavoro di persone con disagio psichico. Anche la comunicazione abbraccia sempre di più i temi sociali. Comunicazione sociale in Italia è sinonimo di pubblicità progresso. La fondazione che da 40 anni stimola la coscienza civile ad agire per il bene comune. Pubblicità progresso ha promosso campagne contro il razzismo, il fumo, l'inquinamento, per la donazione di sangue e per la donazione di organi, l'ultima del 2012, campagne che in molti casi hanno fatto epoca. Oggi la leva su cui puntare è l'ironia, ci ha detto il presidente Alberto Contri, che abbiamo intervistato in occasione della conferenza internazionale della comunicazione sociale. Dobbiamo abbattere gli stereotipi. Non è vero che bisogna dare un pugno nello stomaco per farsi ricordare. È vero che ci sono paesi che ancora sono molto cruenti quando fanno vedere per esempio una campagna per la prevenzione di incidenti stradali, ma noi abbiamo stuoli di psicologi che ci dicono: guarda che quando fai vedere le lamiere contorte o magari di sangue che gocciola sull'asfalto, il meccanismo che avviene immediatamente è un meccanismo di rimozione. Uno vede queste immagini così forti e dice: ma io guido benissimo, quello a me non succede. Mentre abbiamo molte campagne su queste tematiche fatte stimolando l'ironia, quindi sollevando la guardia di chi ascolta per farlo riflettere, ma anche su temi molto difficili come le disabilità gravi o addirittura l'AIDS. Ormai non se ne può più di queste campagne con la voce pietosa che ti chiedono un euro per qualsiasi cosa. Certo, sono tutte iniziative anche utili, che però alla fine costituiscono un colossale rumore di fondo. Il ruolo nostro è spiegare quanto è importante fare delle campagne che abbiano quella che con un anglicismo noi chiamiamo la call to action, cioè io ti chiamo a fare qualcosa di preciso e non mi lamento semplicemente dei mali del mondo oppure non creo semplicemente un po' di emozione. Sono campagne che in realtà si fanno con le stesse tecniche delle campagne commerciali, se non che si occupano di problematiche sociali. Patrizia, viceversa, anche i brand, quindi la comunicazione commerciale classica, si appropria in certi casi degli stilemi della comunicazione sociale con risultati molto apprezzabili. Sì, la combinazione che in questo caso è ironia e appunto call to action, lo stimolo alle persone a fare, a partecipare e anche a fare scelte d'acquisto, sensibilizzando per esempio sui temi animalisti. Un caso interessante in Svezia, la campagna di affissioni di Coop Consum a favore dell'allevamento da terra per i polli. Sono stati posti dei cartelloni, delle affiche negli spazi urbani sulle cabine telefoniche pubbliche che recitano: abbiamo smesso di vendere uova provenienti da galline che vivono in gabbia. Prova a prendere 10 persone intorno a te e ad entrare in questa cabina. Capirai subito perché l'abbiamo fatto. Stesso obiettivo con modalità più estreme per Lush, azienda cosmetica inglese, che ha messo in piedi in un suo punto di vendita londinese una singolare protesta contro i test sugli animali. Due performance artist si sono sottoposti ad alcuni trattamenti proprio nelle vetrine dello store davanti ai passanti, evidentemente increduli e un po' turbati da questa messa in scena di dolore e tortura. Altro caso di cosiddetto sensible branding, e siamo lontani dall'ironia, che fa entrare appunto i consumatori in empatia con prodotti e servizi, la campagna sociale associata alla pizza da asporto. L'iniziativa è Hunger Delivery, è stata fatta ad Assunción. La pizza ordinata arriva molto in ritardo e sul cartone c'è la scritta: a te è arrivata tardi, ma a qualcuno non arriva mai. E ancora: solo se hai fame puoi capire l'affamato. Tutti gli incassi saranno devoluti a... Quante volte ci capita di leggere questa scritta sulle immagini di una campagna pubblicitaria? Si tratta del cosiddetto cause-related marketing, cioè il marketing collegato a una qualche causa sociale. Si realizza attraverso la partnership tra un'azienda e un'organizzazione no profit, appunto per realizzare un progetto di utilità, di interesse sociale. E ci sono progetti umanitari in cui il brand di fatto c'è ma non si vede. È il caso di Pepsi, dopo l'uragano delle Filippine, in collaborazione con My Shelter Foundation, ha riportato l'elettricità nelle case sfruttando le sue bottiglie vuote di plastica riempite d'acqua e semplicemente il sole. Il sistema è stato studiato dall'MIT e basta una bottiglia di plastica piena d'acqua infilata nel tetto delle case per riportare i raggi del sole nelle abitazioni. L'iniziativa si chiama non a caso Liter of Light, un litro di luce. Cosa c'è di nuovo a... Cosa c'è di nuovo a Göteborg sui consumi sociali? Ce lo racconta la nostra Urban Watcher Alessia Zampano. Ciao Alessia. Ciao, un saluto a tutti. Factum è uno street journal creato e venduto dai Senza Fissa Dimora, che si è reso protagonista di una campagna di raccolta fondi decisamente provocatoria. In città si stima che gli homeless siano quasi 3.500 e l'intento di questa iniziativa, insieme al fundraising, è anche quello di sensibilizzare le persone verso questo problema sociale. A questo scopo, insieme a un'agenzia di comunicazione, la rivista ha ideato il Factum Hotel, di fatto un sito web su cui si possono prenotare stanze molto particolari. Un sacco a pelo su un letto di foglie, un capanno sotto un ponte, in pratica un classico riparo da senza tetto. Il soggiorno in questi alloggi decrepiti costa $10 a notte e si possono sul serio prenotare. Saranno i clienti a decidere poi se usufruire o meno di queste sistemazioni di fortuna e fare quindi sulla propria pelle l'esperienza di una o più notti alla ghiaccio. Quel che è certo è che i fondi così ricavati verranno usati per supportare Factum nel suo lavoro di assistenza e reinserimento dei più vulnerabili. Grazie Alessia. Patrizia, anche i consumi, dunque, lo abbiamo dimostrato, possono fare del bene al mondo. Non c'è il rischio, come per il greenwashing, di una pennellata, in questo caso buonista, che al pari di quella verde possa servire a vendere di più e basta? Sì, certo che c'è il rischio e sta al consumatore, che sappiamo essere molto informato e smart, accorgersi dei casi etici genuini e di quelli etici per finta. L'altro rischio legato alla rete è quello dello slacktivism, il cosiddetto attivismo da click, degli attivisti dal consenso facile, diciamo, quello fatto con un like sui molti social network, che promuovono sì centinaia di cause al giorno, ma molte persone dopo il like di fatto non contribuiscono davvero. Se vi siete persi qualcosa potete riascoltare e scaricare questa e le altre puntate di Essere Avere sul nostro sito radio24.it sezione programmi oppure sulla nostra pagina Facebook, dove aspettiamo i vostri commenti, le vostre idee, i vostri suggerimenti, in attesa di risentirci come sempre domenica prossima dopo il GR delle 16. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.